Invoco la tua presenza, o Spirito Santo, perché tu doni a chi parla sapienza e a chi ascolta intelletto i tuoi doni affinché possiamo entrare nella parola di Gesù. Perché vedete, cristiani, quando noi prendiamo in mano il Vangelo, certe volte facciamo un cortocircuito. Andiamo subito a cercare di capire che cosa dicono a noi queste parole. E non sempre, cioè, è sempre sbagliato, e non sempre riusciamo a capire bene, perché chi sono questi sapienti, dotti e piccoli, chi sono? Oppure chi è stanco e oppresso e Dio gli dà ristoro, non è semplicemente la gente che è stressata e invece degli ansiolitici ha bisogno del Vangelo, non è solamente così. Quando noi leggiamo il Vangelo dobbiamo sempre, anzitutto, cercare di capire che cosa voleva dire quando Gesù le ha pronunciate queste parole. Gesù era in opposizione agli scribi e ai farisei e parla ai suoi discepoli esattamente in questo confronto. Allora, i sapienti e i dotti, coloro che si ritenevano così, erano gli scribi e i farisei, e i piccoli erano i discepoli di Gesù. E allora, quando parla di stanchezza e di oppressione, si riferisce al peso della legge, che era fatta di più di 600 spunti. E Gesù dice: ma no, ma io vi voglio liberare da questo peso. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. E questo è importante capirlo, perché se vogliamo riferire ai nostri giorni questo insegnamento, dobbiamo partire esattamente da questo. Allora io vi offro la mia riflessione, questo che vi ho letto è Vangelo, questo che vi dico non è Vangelo. È la mia riflessione, è il mio latte. Ho mangiato questa parola di Dio e vi do. Mi veniva in mente se ancora oggi c'è gente schiacciata dal peso della fede. Io temo di vedere gente, chiamiamola di parrocchia, o brava gente, che è dentro in tutto. Tutti gli impegni parrocchiali, e poi magari del paese, e poi magari della scuola, e poi magari di tante cose. Non mancano mai, non mancano mai, tanto da sentirsi dire magari dai loro familiari: e perché non porti giù il letto in parrocchia, visto che sei sempre giù? Ecco, è esattamente questo che Gesù vuole da noi? Che siamo schiacciati da tutti questi impegni? E poi magari presi come siamo da riunioni, da consigli, da studi, da programmazioni, non abbiamo il tempo di pregare. Sapeste, amici, quante volte gli affettuosi frequentatori delle riunioni parrocchiali poi non vanno magari a messa tutti i giorni. Hanno tanto tempo da impiegare per il resto che non hanno più tempo da pregare. Forse Gesù vorrebbe dire anche a noi: ma non inseguire più tutte queste cose, io ti libero, il mio peso è leggero, guarda in faccia a me. Tenendo lo sguardo fisso su Gesù, colui da cui prende inizio la fede e che poi la porta a compimento, amici. Stiamo attenti a non scegliere la religione al posto della fede in Gesù. Ma assieme a questo mi viene in mente anche tutta la gente che oggi corre, che fa il taxista dei figli, che deve portarli a nuoto, poi in palestra, poi magari a violino, poi magari a danza, poi magari non hanno più tempo di respirare. Non hanno più tempo neanche i coniugi di guardarsi in faccia e di dire ti amo. Figuriamoci se hanno il tempo di andare a messa la domenica a domenica c'è da fare altre cose, visto che in settimana si lavora per tutto il resto. Anche a loro Gesù dice, poi tocca a noi confrontarci, amici, io metto lì il disegno e poi ciascuno di noi si confronterà. Io appartengo a una categoria, appartengo all'altra, o grazie a Dio appartengo a nessuna, appartengo alla categoria dei piccoli che sono miti come il loro maestro, che trovano ristoro. Allora io vi suggerisco, amici, c'è un luogo, ed è la Chiesa, ed è il tabernacolo, dove si può stare a guardare in faccia Gesù. Ma quando io suggerivo questo a degli amici mi dicevano, Don, ma noi lavoriamo, non siamo religiosi come voi. Ti ringrazio, fratello, che mi fai questa osservazione, perché allora bisognerà che voi che siete dentro nel mondo, che dovete lavorare, che dovete andare a scuola per i figli, che dovete accompagnarli comunque allo sport, ecco che però facciate questo nel nome di Dio. Che facciate questo sapendo che un cristiano battezzato laico si fa santo anche lavorando, si fa santo anche baciandosi col proprio coniuge, si fa santo anche mantenendo la mitezza e l'umiltà in casa quando fa le osservazioni ai figli. Guardare comunque sempre a Gesù.